La vita di Charlotte Bronte di Elizabeth Gaskell, Castelvecchi Editore, traduzione di Simone Buffa di Castelferro, volume secondo, capitolo primo. Durante l'estate del 1846, mentre le sue speranze di un successo letterario andavano svanendo, un'ansietà di diversa natura andava aumentando. La vista di suo padre era quasi completamente ottenebrata dal progredire della cataratta. Poteva spostarsi andando a tastoni e riconosceva la figura di quanti gli erano familiari se si trovavano in piena luce, ma non ci vedeva assolutamente più per leggere e perciò il suo insaziabile desiderio di conoscenza e di informazione era severamente colpito. Continuava a predicare. Mi hanno detto che veniva accompagnato sul pulpito e che i suoi sermoni non furono mai così efficaci come quando egli si levava maestosamente, vegliardo, privo di vista, lo sguardo immobile, fisso di fronte a sé, mentre le parole gli fluivano dalle labbra con tutto il vigore e la forza dei suoi giorni migliori. Mi è anche stato riferito che era ancora capace di misurare esattamente il tempo. I suoi sermoni avevano sempre avuto la durata di mezz'ora. La cosa non gli era stata difficile mentre parlava, avendo l'orologio sotto gli occhi, ma nulla cambiò anche durante la cecità. Quando le lancette dei minuti segnavano lo scadere della solita mezz'ora, il sermone finiva. Sopportò con pazienza la grave afflizione, anche se molti interessi ne venivano ostacolati, e certamente, mentre si chiudeva in se stesso, deve aver meditato dolorosamente sulla condotta del suo unico figlio maschio. Non c'è da meravigliarsi se, dopo un certo tempo, cadde in uno stato di depressione. Durante quell'autunno le figliole avevano raccolto tutte le informazioni possibili circa le probabilità di successo di un'operazione di cataratta a una persona dell'età del loro padre. Verso la fine di luglio, Emily e Charlotte si erano recate a Manchester col proposito di cercare un oculista che fosse un buon chirurgo e là udirono parlare del dottor Wilson che godeva di ottima fama. Si recarono immediatamente da lui. Egli dichiarò che non era in grado di dire sull'unica base delle loro informazioni se Mr. Bronte fosse operabile o no. Doveva sottoporsi a una visita. Verso la fine di agosto, Charlotte lo accompagnò dal dottore, che decise di operare immediatamente e indicò loro una buona pensione gestita da una sua ex domestica. La locanda si trovava in un sobborgo della città, formato da numerose vie che correvano lungo piccole case tutte uguali. La lettera che segue è scritta da quel luogo. 21 agosto 1846. Scarabocchio appena due parole per farti sapere dove mi trovo affinché tu possa scrivermi qui. Mi sembra che una lettera da te mi solleverebbe dalla triste impressione che provo in questa città dove mi sento completamente estranea. Papà ed io siamo giunti venerdì. Il giorno stesso abbiamo visto l'oculista, Mr. Wilson, che ha dichiarato che gli occhi di papà sono appunto per un'operazione fissata per lunedì prossimo. Pensa a noi in quel giorno. Siamo entrati nella nostra pensione ieri. Ho l'impressione che vi staremo comodi, le nostre camere sono ottime. La padrona di casa però non c'è. È molto ammalata e si è recata in campagna. Sono in grande imbarazzo nel fare le provviste. Dobbiamo pensare noi ai pasti e io mi scopro assolutamente ignorante in proposito. Quando ordino la carne non ho idea di che pezzi debba chiedere. Per noi due potrei cavarmela senza difficoltà. La dieta di papà è talmente semplice. Ma da qui a un giorno o due ci sarà un'infermiera e temo di non prendere cose abbastanza buone per lei. Papà, lo sai, non ha pretese. Per lui bastano il manzo, il castrato, il tè, il pane, il burro. Ma un'infermiera si aspetterà probabilmente di essere trattata assai meglio. Se ne sei capace, dammi un qualche suggerimento. Mr. Wilson dice che dovremmo fermarci qui almeno un mese. Mi chiedo come Emily e Anne se la caveranno con Bronwell a casa. Avranno anche loro dei problemi. Oh, che cosa non darei per averti qui. Un passo dopo l'altro siamo costretti a fare le nostre esperienze in questo mondo, ma imparare è veramente sgradevole. L'unica cosa incoraggiante sta nell'atto che Mr. Wilson fa delle favorevolissime previsioni per papà. 26 agosto 1846. L'operazione è stata fatta ieri. Mr. Wilson operava, due altri chirurghi assistevano. Mr. Wilson dice di esserne assolutamente soddisfatto, ma papà ancora non ci vede per niente. Il tutto ha richiesto un quarto d'ora. Non si è trattato della semplice operazione descritta da Mr. C, ma bensì dell'estrazione della cataratta. Papà ha dato prova di straordinaria pazienza e di grande fermezza. I chirurghi ne sembravano sorpresi. Sono rimasta nella stanza per tutto il tempo, secondo il suo desiderio. Naturalmente non ho fiatato e non mi sono mossa fino alla fine. Capivo che quantomeno avessi parlato a lui o ai chirurghi, tanto meglio sarebbe stato. Papà ora è confinato a letto in una camera buia e per 4 giorni non si deve muovere. Può parlare, gli si può parlare, meglio se il meno possibile. Ti sono molto obbligata per la tua lettera e per i gentili consigli che mi dai. Mi hanno procurato un'estrema soddisfazione perché leggendoli mi sono accorta di avere sistemato la maggior parte delle cose come mi indichi tu. E visto che la tua teoria coincide con la mia pratica, sono sicura che è corretta. Spero che Mr. Wilson mi permetta quanto prima di fare a meno dell'infermiera. È abbastanza brava, ma ha dei modi troppo ossequiosi e ho l'impressione che non sia molto fidata, anche se sono stata costretta a fidarmene per alcune cose. Mi sono assai divertita al resoconto dei corteggiamenti di X, sentendomene però anche rattristata da un certo punto di vista. Penso che la natura lo destinava a qualcosa di meglio dello sprecare il tempo a far patire un intero gruppo di povere zitelline che non hanno niente da fare. Le ragazze, disgraziatamente, sono indotte a dare importanza a lui e ad altri simili perdigiorno, perché mentre le loro menti sono per lo più disoccupate, le loro sensazioni sono integre e di conseguenza fresche e verdi, mentre lui ha fatto il pieno dei piaceri e ora può permettersi impunemente di divertirsi alla vista dei tormenti altrui. È uno stato di cose ingiusto. La lotta è impari. Vorrei avere il potere di infondere nell'animo delle perseguitate un po' della tranquilla forza che ci dà l'orgoglio. Vorrei convincerle della loro superiorità, poiché esse gli sono superiori essendo più pure, di quanto sia fortificante sopportare il presente aspettando una conclusione. Se l'intero consorzio delle vergini di X potesse accogliere e far propria questa posizione, lui sarebbe costretto ad abbassare la cresta di fronte a loro. Speriamo che per fortuna i loro sentimenti non siano così accesi come si potrebbe credere e che le stoccate di quel signore non vadano a fondo come vorrebbe. Spero proprio che sia così. Alcuni giorni più tardi, Charlotte scrive: Papà è ancora trattenuto a letto, in una camera buia con gli occhi bendati. Non si è manifestata alcuna infiammazione, tuttavia sembra che la massima prudenza, una totale immobilità e l'assoluta esclusione della luce siano necessarie per assicurare il perfetto successo dell'operazione. È molto paziente, ma naturalmente si sente depresso e stanco. Ieri, per la prima volta, ha avuto il permesso di sperimentare la vista. Può vedere come in una nebbia. Mr. Wilson sembra soddisfattissimo e ha detto che tutto era a posto. Io ho avuto notti cattive a causa del mal di denti. Ne soffro da quando siamo a Manchester. Durante tutto questo tempo, nonostante le ansietà domestiche che le tormentavano, nonostante l'insuccesso delle loro poesie, le tre sorelle stavano tentando quell'altra avventura letteraria a cui Charlotte aveva fatto cenno in una sua lettera ai signori Aylott. Ciascuna di loro aveva scritto una storia in prosa nella speranza che i tre lavori potessero essere pubblicati insieme. Cime tempestose di Emily e Agnes Grey di Anne sono sotto gli occhi di tutti. Il terzo, The Professor, quello di Charlotte, è ancora inedito, ma verrà pubblicato appena queste memorie avranno visto la luce. L'intreccio non presenta un grande interesse, ma l'interesse che si basa più su incidenti intesi a creare sensazione che sul drammatico sviluppo dei caratteri è poca cosa. E Charlotte Bronte non fece mai nulla di migliore di alcuni ritratti psicologici presenti in The Professor e dal punto di vista della grazia femminile mai sorpassò personaggi qui descritti. I tre racconti, dopo aver tentato invano di correre la sorte insieme, furono infine inviati separatamente a editori diversi, ma per molti mesi con ostinato esito negativo. Accenno a questi fatti perché, a quanto mi dice Charlotte, mentre si trovava a Manchester aspettava la risposta di un non so quale editore che respinse il suo racconto con un secco rifiuto, giuntole proprio nel giorno in cui suo padre veniva operato. Ma nel petto aveva un cuore degno del leggendario eroe scozzese Robert Bruce, e i ripetuti insuccessi non la domarono più di quanto fecero quelli di lui. Mentre The Professor continuava invano a tentare la sua sorte, quel genio coraggioso iniziò a scrivere Jane Eyre, proprio in quel periodo di eccezionale preoccupazione, di deprimente inquietudine e in quell'ostico ambiente di grigie, torpide vie tutte uguali, lungo le quali tutti i visi che incontrava, eccettuato quello del loro gentile dottore, le erano estranei. Ecco quello che lei stessa dice in proposito. Il libro di Carer Bell, cioè il nome maschile con cui Charlotte si firmava, non incontrò accettazione, non gli fu riconosciuto alcun merito e così il gelo della disperazione incominciò a invadere il cuore dell'autore. Considerate che non si tratta del cuore di una persona che, delusa in una speranza, poteva rivolgersi con slancio raddoppiato ad altre sicure e benedette aspettative. Pensate a quale fosse la sua casa, alla cupa ombra del rimorso che opprimeva uno di quelli che vi abitavano e che doveva alla fine condurlo alla perdita della ragione, nonché della vita stessa. Pensate alla vista di suo padre appesa a un filo, alla salute delicata delle sorelle e come esse dipendessero dal suo appoggio morale, e ammirate come merita di essere ammirato il saldo coraggio che la rese capace di lavorare con costanza a Jane Eyre, mentre quel suo primo racconto faceva inutilmente lo sfibrante giro da un editore all'altro a Londra. Beh, credo di aver già detto che alcuni degli amici che le sopravvissero pensano che un incidente di cui ebbe notizia mentre si trovava da Miss Fuller fu il germe da cui nacque Jane Eyre, ma su questo non si può andare oltre una semplice congettura. Quelli a cui parlò dei suoi scritti hanno ormai le labbra sigillate dalla morte e chi mi legge avrà probabilmente notato che dalla corrispondenza che mi ha fornito tante informazioni sulla sua vita quotidiana, non si ricava alcuna notizia né sulla pubblicazione delle poesie né sul tentativo delle tre sorelle di far accettare a un editore le loro storie. Ricordo tuttavia molti minuti particolari che Miss Bronte mi comunicò in risposta alle mie domande sul suo modo di comporre. Mi disse che non era in grado di scrivere ogni giorno allo stesso modo. A volte passavano settimane, perfino mesi prima che sentisse di avere qualcosa da aggiungere a quanto era già scritto. Poi una bella mattina si destava, avendo in mente chiaro e luminoso in una ben distinta visione il seguito del racconto. Quando ciò avveniva, sua prima preoccupazione era il disbrigo di tutte le faccende domestiche e dei suoi doveri filiali, per avere il tempo di mettersi a scrivere le vicende e i pensieri che in quei momenti le erano più presenti della sua stessa vita quotidiana. Tuttavia, nonostante questo invasamento, tra virgolette, che proprio di ciò si trattava, i pochi compagni della sua vita che sopravvivono sono concordi nell'affermare con la massima decisione che mai un dovere, mai una richiesta di assistenza furono accantonati anche per un solo istante. Era stato necessario dare a Tabby, ormai ottantenne, l'aiuto di una ragazza, ma Tabby dimostrava la massima riluttanza nel lasciarsi aiutare. Non sopportava che le fosse ricordato, per quanto fosse la delicatezza nel farlo, che l'acutezza dei sensi era in lei diminuita dall'età. L'altra domestica non poteva interferire nei lavori che lei considerava di sua spettanza. Fra gli altri diritti si riservava quello di sbucciare le patate per la cena, ma siccome la sua vista si era molto abbassata, spesso lasciava sui tuberi certe chiazze scure che noi al nord chiamiamo occhi. Miss Bronte era una padrona di casa troppo precisa per lasciar correre su questo punto, tuttavia non voleva ferire l'orgoglio della fedele vecchia domestica dando l'ordine alla sua giovane aiutante di ripassare le patate, perciò entrava silenziosamente in cucina, portava via senza dar nell'occhio la grande ciotola che conteneva le verdure e, interrompendo il fluire dell'ispirazione, toglieva gli occhi delle patate e le rimetteva al loro posto. Il particolare che ho riferito serve a dimostrare quanto ordine e quanta cura ella metteva nel disbrigo delle faccende domestiche, perfino nei momenti in cui l'ispirazione la possedeva. Chiunque abbia studiato i suoi scritti, sia pubblicati che nelle lettere, chiunque abbia goduto del raro privilegio di udirla parlare, ha notato una singolare felicità nella scelta delle parole. Componendo i suoi libri, vi ha sempre posto la massima cura. La scelta delle parole è lo specchio del suo pensiero. Nessun altro termine, per quanti sinonimi abbia, potrebbe essere sostituito a quello scelto da lei. Aveva un rispetto per quella semplice, santa verità dell'espressione che Mr. Trench impone come dovere a chi scrive, ma che troppo spesso viene disatteso. Era solita indugiare pazientemente, aspettando che il termine giusto le venisse in mente, finché questo non le si presentava. Poteva trattarsi di un provincialismo, oppure poteva, all'opposto, essere derivato dal latino, purché esprimesse accuratamente l'idea che voleva esprimere. Non le interessava quale ne fosse l'origine, e questa sua preoccupazione fa sì che la prosa dei suoi romanzi presenti la finezza di un mosaico. Ogni tassello è stato collocato nel punto giusto. Non scrisse mai una frase senza avere prima chiarito con esattezza quanto voleva dire, aver scelto deliberatamente ogni parola e averla sistemata nella corretta concatenazione. Ne consegue che i suoi fogli scritti a lapis che ho avuto modo di vedere si trovino cancellati interi periodi, ma mai un vocabolo o una singola espressione. Scriveva su quei pezzi di carta con una grafia minuta, appoggiandosi su un'asticella simile a quelle che si adoperano per rilegare i libri. Era un metodo che le imponeva la miopia da cui era afflitta e che aveva il vantaggio di permetterle di utilizzare carta e matita mentre nella penombra del crepuscolo sedeva vicino al caminetto acceso, oppure quando, come troppo spesso accadeva, rimaneva desta per ore e ore durante la notte. I manoscritti definitivi venivano ricopiati da quei fogli sparsi con una grafia chiara e delicata, quasi tanto facile da leggere quanto lo sono i caratteri tipografici. Le sorelle erano rimaste fedeli all'abitudine che risaliva ai tempi della zia. Riponevano il lavoro di cucito alle 9 di sera e incominciavano a studiare, passeggiando su e giù per il soggiorno. Era quello il momento in cui parlavano delle storie che stavano scrivendo e si raccontavano gli intrecci. Una volta alla settimana ciascuna di loro leggeva le altre quanto aveva scritto e ne ascoltava i commenti. Charlotte mi disse che le osservazioni negative la inducevano raramente ad alterare il suo lavoro, tanto era convinta di aver accuratamente descritto la realtà. Ma quella lettura era di stimolo e interesse per tutte. Le sottraeva alla pressione delle cure quotidiane, trasportandole in un libero spazio. Fu in uno di quei momenti che Charlotte prese la decisione di privare la sua eroina di ogni bellezza, descrivendola minuta e poco attraente, contrariamente all'uso corrente. Chi scrisse il bel necrologio in occasione della morte di Carrer Bell probabilmente seppe da lei stessa quanto vi ho detto a proposito di Jane Eyre. Mi prendo la libertà di citarlo. Una volta ella disse alle sorelle che commettevano un errore, addirittura un errore etico, nel far belle le loro eroine come se fosse scontato. Esse replicarono che diversamente era impossibile rendere un'eroina interessante, al che lei aveva risposto: «Vi dimostrerò che siete in errore. Vi presenterò un'eroina che, pur piccola e priva di bellezza, quale sono io, sarà tanto interessante quanto le vostre». Così nacque Jane Eyre, disse riferendomi quanto sopra. La quale tuttavia non ha altro di me che questo. A mano che il lavoro procedeva, la scrittrice ne era presa sempre di più. Dopo aver fatto giungere Jane a Thornfield, stentava a interrompere il racconto. Data la grande miopia, scriveva in quadernetti quadrati che teneva all'altezza degli occhi, tracciando la prima stesura a lapis. Lavorò così, in grande tensione durante 3 settimane, fino a quando fece uscire la sua eroina da Thornfield. Allora si rilassò, anche perché si era buscata una febbre che la costrinse a fermarsi. Credo che la citazione qui sopra sia quanto per ora è opportuno dire rispetto all'invenzione e alla composizione di quel meraviglioso romanzo che era solamente all'inizio, quando Miss Bronte fece ritorno a Haworth col padre, dopo il loro soggiorno a Manchester così pieno di ansie. Giunsero a casa verso la fine di settembre. Mr. Bronte riprendeva forza di giorno in giorno, ma era ancora prudente non stancare gli occhi. Mentre erano via, le cose in famiglia erano andate meglio di quanto Charlotte avesse osato sperare. Si dichiarò grata per il bene ottenuto e per il male evitato durante la sua assenza. Verso quel tempo venne fatta a Miss Bronte una nuova proposta di aprire una scuola alquanto lontana da Haworth. Non ne conosco i particolari, ma ho qui alcuni brani della sua caratteristica risposta: allontanarmi da casa. Forse non sarò in grado di trovare né un domicilio né un impiego quando sarò oltre la prima giovinezza, con facoltà mentali arrugginite e buona parte delle cognizioni acquisite e dimenticate. A volte questo pensiero mi punge acutamente, ma consultando la mia coscienza ne ottengo una netta risposta. Restando a casa agisco in modo giusto. Il cedere al desiderio di libertà merita solo biasimo. Difficilmente potrei sperare nel successo se commettessi l'errore di disattendere simili ammonimenti. Vorrei ricevere nuovamente tue notizie al più presto. Fatti dare da lui non un vago, bensì un chiaro resoconto delle alunne che è in grado di garantire. Spesso si pensa di poter fare molto in proposito finché non si è tentato. L'ottenere alunne è diverso dall'ottenere un qualsiasi altro genere di cose. Quale sia stata la natura e la portata di questa trattativa, in conclusione Charlotte aderì alla suggestione della coscienza che le consigliava di rimanere a casa a rallegrare e confortare con la sua presenza chi era in difficoltà, e mentre aveva una benché minima influenza su colui che era cagione di angustia. La citazione che segue ci permette di gettare un'occhiata sulla situazione di quella casa. È da una lettera in data 15 dicembre. Spero che tu non sia congelata. Qui il freddo è tremendo. Non ricordo un'altra serie di giorni polari simili a questi. Sembra davvero che l'Inghilterra sia slittata verso la zona artica. Il cielo fa pensare a una lastra di ghiaccio. La terra è gelata, il vento è tagliente come una lama a doppio filo. Tutti noi abbiamo preso un terribile raffreddore e la tosse, grazie al tempo. La povera Anna ha sofferto assai per l'asma, ma ora possiamo dire con piacere che sta un po' meglio. La scorsa settimana ha passato 2 notti in cui la tosse e la difficoltà di respiro facevano soffrire chi la udiva e la vedeva, e debbono essere state terribili, ma lei le ha sopportate come sopporta qualsiasi afflizione, senza un lamento. Solamente sospirava ogni tanto, giunta quasi all'esaurimento delle forze. Ah, oh, possiede davvero uno straordinario eroismo. L'ammiro, ma certamente non saprei imitarla. Scrivi che devo dirti ogni cosa. Cosa ti potrei dire? A Haworth non accade nulla di piacevole. Circa una settimana fa c'è stato un piccolo incidente che ci appunte sul vivo, ma se l'esserne informata non ti darà più piacere di quanto diede a noi l'assistervi, non mi ringrazierai per avertelo riferito. Si tratta semplicemente della visita di un poliziotto a Bronwell per intimargli di pagare i suoi debiti se non voleva seguirlo a York. Naturalmente quei debiti si sono dovuti pagare. Non fa piacere di perdere denaro a questo modo, una volta dopo l'altra. Ma che pro insistere su questo argomento? Non miglioreremo la situazione parlandone. 28 dicembre. Mi sembra quasi una farsa il mettermi qui a scriverti senza avere nulla da dire che meriti di essere detto. E davvero rimanderei di farlo per almeno 15 giorni, se non fosse per 2 motivi. Il primo è che voglio un'altra lettera da te, perché le tue lettere sono interessanti, hanno un contenuto, si ricevono con piacere e si leggono con gusto, e non posso aspettarmi di riceverle se non rispondo. Vorrei che la corrispondenza potesse avere luogo a senso unico. Il secondo motivo lo trovo in una osservazione contenuta nella tua ultima lettera. Dici di sentirti sola, come capitava a me quando ero a Bruxelles, e che perciò provi il desiderio di ricevere notizie dai vecchi amici. Posso capire questo stato d'animo e simpatizzare con esso. Rammento che quando mi trovavo nel luogo che citi, anche un semplice biglietto era un vero festino per me, perciò ti scrivo. Ho inoltre un terzo motivo, che è il timore di lasciarti immaginare che ti dimentico, che l'assenza raffreddi il mio affetto. Non appartiene alla mia indole dimenticarti. Tuttavia, oso dire che una volta o l'altra, se vivessimo insieme senza interruzione, sputerei fuoco ed esploderei, ti irriteresti anche tu, e poi ci riconcilieremo e tireremo avanti come se nulla fosse. Ti senti mai insoddisfatta del tuo umore quando ti trovi per lungo tempo in uno stesso luogo, circondata da uno stesso scenario, assoggettata a una invariabile, monotona noia assoluta? Io sì. E ora mi trovo in questo poco invidiabile stato. Penso che il mio umore sia troppo prontamente perturbato, troppo amareggiato, troppo dimostrativo e veemente. Quasi anelo a un po' di quella serenità uniforme che descrivi nell'indole di Mrs. O perlomeno, come vorrei avere un po' del suo autocontrollo, della sua facoltà di dissimulare. Ma non vorrei prendere le sue abitudini artificiose e le sue idee insieme alla sua compostezza. In conclusione, preferisco essere come sono. Fai bene a non lasciarti infastidire da ogni massima convenzione in cui ti imbatti. Considera ogni novità alla stregua di un'esperienza. Se vi scopri del miele, raccoglilo. Tutto considerato, Non penso che si debba disprezzare quanto ci vediamo intorno semplicemente perché sia lontana dalle nostre abitudini. Anzi, sospetto che in molti casi vi siano consistenti motivazioni sotto certe abitudini che a noi sembrano assurde e, se mai mi dovessi trovare in mezzo a stranieri, mi farei premura di esaminare la situazione prima di condannarla. L'ironia indiscriminata e la tendenza a trovar pecche in ogni cosa è pura presunzione e non c'è altro da dire. Ann ora è migliorata in modo soddisfacente, ma papà ogni tanto ha la tosse ed è stato per una quindicina di giorni tutt'altro che bene, a causa dell'influenza. Quando la tosse insiste a tormentarlo, lui si deprime. Così termina l'anno 1846.